sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io ero abituato ai campionati dilettantistici in Italia, dove per scattare foto a bordo campo devi lasciare il documento all'arbitro, dichiarare per quanto tempo ti fermi e molto altro ancora. Invece là, per il solo fatto di essere italiano, ero finito sul campo della Coppa Nazionale. Ciao, sono Alessandro, ho 30 anni, vivo a Merate in provincia di Lecco. Per tanti anni ho fatto il fotografo di giornali locali, ho una passione appunto per i viaggi, la scrittura, la lettura e ovviamente la fotografia. Caro Matteo, stasera ho assistito ad un concerto di Vinicio Capossela con Mauro Ottolini ai fiati. Nulla di atipico, se non fosse che eravamo ad Helsinki, alla Sala della Musica della città. Una grandissima emozione, Mauro ha anche composto una canzone in finlandese. Grazie ancora per avermi fatto conoscere Mauro Ottolini, con voi siete qui. Buon lavoro, un saluto dal nord. Mirko, questa è una mail che è arrivata questa notte, che mi piace leggere proprio in questo momento che abbiamo ancora in sottofondo la musica di Mauro Ottolini, che arriva dalla sigla che ci ha composto qualche mese fa. Mauro Ottolini, appunto, che avete conosciuto probabilmente al live, o ne avete sentito parlare a riguardo del live che abbiamo fatto lo scorso mese di giugno, ma che, oltre a essere un grande musicista e compositore, anche uno dei musicisti che suona con Vinicio Capossela. E forse, se avete visto Vinicio dal vivo qualche volta, avrete visto anche Mauro Ottolini. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 in punto, è un bel lunedì qui a Milano, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui. Raccontiamo delle storie, oggi lo facciamo da qui, appunto, dal Via Monterosa 91, dalla sede, dalla splendida sede di Renzo Piano di Radio 24 qui a Milano, ma domani saremo all'esterno e saremo visibili, pensa che culo, per tutti quelli che hanno voglia di venire a vederci. Non mancherà solo Miriam Lucchetti, giusto Miriam, che sarà qui a lavorare duramente come fa tutti i giorni, ma se voi non avete nulla da fare e anzi avete proprio voglia di venire al Pirelli Store, al Pirelli Flagship Store per esattezza, arriva addirittura per l'occasione Paolino Corleoni, che domani sarà con noi alle ore 16 per seguire una diretta come non l'avete mai vista, mi verrebbe da dire, perché delle volte parti con una frase che non vuoi dire e la frase ti possiede. Se avete voglia di vedere una diretta, noi domani siamo lì alle 16 in punto, ovviamente corso di Porta Venezia numero 1 a Milano, lo vedete, arrivate in piazza San Babila, imboccate corso Venezia e c'è il negozio della Pirelli che è bellissimo ed è grandissimo. E domani, tra l'altro, è una puntata particolare, perché è vero che raccontiamo storie di motociclette, ma c'è quello che oserei definire un grandissimo ritorno a Voi Siete Qui. Molti di voi lo ricordano come l'autore della storia di Scagnolari. Non potrà essere con noi Massimo Neriotti, ma racconteremo una sua storia che parla di motociclette, parla di uomini, parla di donne, è ovviamente molto divertente, e domani torna in diretta con noi. Se volete vedere quello che facciamo in diretta, che più o meno è quello che facciamo tutti i giorni, siamo là dalle ore 16 in punto. Fate una cosa, iscrivetevi al volo adesso, andate sul sito Voi Siete Qui, sul sito di Radio 24, e di fianco alla foto del giorno, eccolo qua, Pirelli, Voi Siete Qui Live, ci cliccate sopra, compilate tutto e domani alle 16 siamo là. Veniamo ad oggi invece, raccontiamo la storia di Alessandro, che parla di una foto scattata in un luogo abbastanza assurdo, perlomeno così a pensarci. Siamo in uno stadio e siamo in Armenia. Ci trovammo fuori dallo stadio mezz'ora prima del fischio d'inizio, come quando ci si ritrova per giocare a calcetto con gli amici. Ma questa volta in palio c'era la qualificazione ai quarti di finale della Coppa d'Armenia. Poco prima della mia partenza avevo contattato su Facebook due giocatori che in Italia avevano disputato qualche stagione nelle serie minori e che allora militavano nelle file dell'Alashkert, una delle innumerevoli squadre della capitale, Yerevan. Il presidente era molto ambizioso e disposto a spendere un sacco di soldi pur di portare la squadra in alto. Entrambi i calciatori italiani si chiamavano Alessandro, come me, ed erano il fiore all'occhiello dell'ultima campagna acquisti. In internet c'erano diversi articoli che parlavano di questi due giovani calciatori che avevano deciso di accettare il trasferimento in un paese di cui, diciamo la verità, si sa ben poco. Io, che sono fotografo ed ero andato in Armenia da solo, fui invitato ad assistere alla partita di coppa fra Alashkert e Mika, allo stadio della Repubblica, in cui solitamente gioca il Pyunik. sono andato in Armenia perché ho letto un sacco di libri su questo paese, sono rimasto affascinato, poi insomma dicevo sempre che volevo andare, l'anno scorso appunto sono andato da solo 20 giorni e ho conosciuto questi due ragazzi che mi hanno invitato alla partita. Io facevo fotografo per giornali locali, quindi cronaca, sport, eventi, politica, e ho approfittato l'occasione per fare due foto alla partita a bordo campo. L'impianto era decisamente bello, 20.000 posti circa. Entrare insieme ai giocatori, e già questo mi sembrò stranissimo. A ridosso degli spogliatoi fui invitato dai miei due connazionali a mettermi a bordo campo, in attesa del riscaldamento. Come prevedibile avevo gli occhi di tutti addosso, finché ad un certo punto mi si avvicinò un signore anziano, probabilmente il magazziniere, e mi chiese in un inglese incomprensibile chi fossi e cosa ci facessi lì. Io tentai di fargli capire che ero un fotografo italiano ed ero venuto per seguire la partita dei due calciatori appunto italiani. Mi fece cenno di aspettare e dopo qualche minuto tornò con una pettorina verde con la scritta FOTO. Rimasi di stucco. Io, abituato ai campionati dilettantistici in Italia, che per scattare foto a bordo campo devi lasciare il documento all'arbitro, dichiarare per quanto tempo ti fermi e molto altro ancora, per il solo fatto di essere italiano, ero finito sul campo dei quarti di finale della Coppa Nazionale. I due italiani furono mandati in tribuna, perché anche in Armenia il campionato ha più valore della Coppa. Io mi sistemai dietro la porta, con la macchina fotografica in mano. Qualche minuto dopo arrivarono due signori, uno più giovane e uno più anziano. Si misero vicino a me, con i loro zaini giganti. Capii subito che anche loro erano due fotografi. Mi fissavano, senza dire una parola. Tirarono fuori la loro attrezzatura, molto migliore della mia, e iniziarono a scattare. Io mi avvicinai al più anziano, forse per rispetto, e mi presentai. Hello, my name is Alessandro, I'm from Italy. I'm here to see the two Italian players. Lui mi guardò stranito e subito però mi fece un gran sorriso. Mi disse che si chiamava Jacob ed era il fotografo di un sito di sport armeno. Mi raccontò che fu il primo fotografo armeno a seguire un europeo come inviato, quello del 2004 in Portogallo, e che una sua foto, scattata, ahimè, durante Olanda-Italia 3-0, venne pubblicata da diversi giornali sportivi. Poco dopo, Jacob chiamò l'altro fotografo, Toto, che parlava un po' di italiano, aveva vissuto a Venezia per qualche anno. Parlammo di calcio, mi dissero che in Armenia non ha un grandissimo seguito. Infatti, nonostante non si pagasse l'ingresso e lo stadio fosse di 20.000 posti, c'erano sì e no un centinaio di persone. Mi raccontarono però che qualche mese prima la nazionale italiana aveva giocato a Yerevan contro l'Armenia per le qualificazioni mondiali e per loro era stata una festa. In 20 giorni ho conosciuto molte altre persone, soprattutto un ragazzo che mi ha ospitato a casa sua qualche giorno, ha fatto vedere le cose più caratteristiche dell'Armenia, e quello che mi è rimasto impresso soprattutto di questo viaggio è la cordialità di queste persone che ti accolgono come se conoscessi da una vita senza chiederti niente. Solo perché ero lì, ero un ragazzo straniero da solo in Armenia, loro mi hanno sempre aiutato in tutte le occasioni, sia per spostarmi, per cercare posti, e ci tenevano che conoscessi appunto la loro ospitalità. Mentre noi parlavamo, le due squadre si davano battaglia in campo. La partita non fu un granché, ma vinse l'Ala Shkert per 1-0. Al fischio finale chiesi ai miei due amici e colleghi di poterci scattare una foto insieme. Così facemmo. Ci salutammo con la promessa di rivederci più avanti. Era il mio primo giorno in Armenia, nei trascorsi altri 19, in solitaria. Dei due giocatori non ebbi più notizie. Ho letto che hanno lasciato l'Armenia nel mercato invernale. Ovviamente non rividi nemmeno più Jacob e Toto, ma spesso riguardo la foto scattata insieme a loro due e ripenso a quei 90 minuti a bordo campo, molto meglio di alcune partite di Champions. Tacerin yerke zavat sorerin Queen is queen tarik ner sirum e mamma Queen is queen tarik nera E ovviamente non poteva essere che quella la foto che ci ha mandato Alessandro e che trovate, se siete curiosi di vederla, sul nostro sito. Voi siete qui Radio 24, esattamente vicino al link per venire alla Pirelli domani alle 16. Sono tutti e tre in posa, devo dire, i due ai lati magrini, invece il nostro Alessandro un po' più presente come presenza, appunto, tutte e due con le casacche gialle e arancione, così detto foto. Alle loro spalle un campo verdissimo, un'erba che sembra tagliata alla perfezione, e alle spalle degli spalti vuoti. Pronto Alessandro, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi adesso? Sono al lavoro, sono in una stanzetta chiuso. Quindi sei tipo in camera oscura? No, perché non esiste più. Però io lo immagino ancora così. Ho un'immagine abbastanza olistica del mestiere del fotografo, lì a stampare roba anche. Sì, e a lavarla nei, come si chiama? Negli acidi? Come si dice? Gli acidi e tutte le cose, poi. Però io la camera oscura non l'ho mai usata. Lo immagino. 30 anni, sono andato col digitale. Lo immagino. Quindi cos'hai, uno studio dove lavori? No, ma io in realtà il fotografo faccio part time. Ok. Gennaio di quest'anno. Adesso lavoro con mio padre, facciamo abbigliamento sportivo, queste cose qui. Dove vi trovate esattamente? In provincia di Monza. Ok, sì, quindi sei da queste parti. Infatti sì. volevo giusto chiederti se sei ricco di famiglia, perché ho la sensazione, guardando i fotografi, diciamo, della mia età, magari persone che, come dire, hanno il vezzo di fare i fotografi, poi non lo fanno fino in fondo, perché comunque immagino sia un mestiere complicato, e sono più o meno tutte persone che stanno bene economicamente, nel senso che non deve essere facile fare il fotografo. Diciamo che non posso lamentarmi da quel punto di vista. Io l'ho fatto per 7 anni a tempo pieno, ero assunto, stipendiato e tutto quanto. Ah, ok. Poi da chi, scusami? Da un giornale? Da una rivista? Sì, è un giornale locale che fa parte di un gruppo di più giornali. E ok. Ho iniziato così, collaborando, poi nel 2007 poi la cosa è andata avanti fino a gennaio di quest'anno, perché poi hanno tagliato un po'. E la fotografia è il settore che hanno tagliato di più, perché vabbè. Quindi adesso che tipo di lavoro fotografico fai? Sempre per giornali, okay. Però giornali diversi, poi lo faccio meno, nel senso non più continuativo. Certo. Ogni tanto collaboro, vado ancora a fare le foto. E vai ancora in giro? Vai in giro tanto oppure dove sì, capita? Nel senso, essendo un giornale locale mi sposto qua nella zona, si fa un po' di tutto. Però dico, esatto, no, non vai più in Armenia, insomma, è quello intendo no, dire. No, in Armenia ero andato per piacere, diciamo. E poi già che c'eri, strano. No, anzi, tra l'altro, guarda, volevo giusto domandarti che paese è l'Armenia? È un paese strano, nel senso che c'è gente. È un po' Turchia, giusto? Oddio, loro quei turchi non sono molto perfetto, l'ho già detta la mia boiata. Benissimo. Per la storia, appunto, del genocidio che c'è stato nel 1915. Sì, no, però intendo dire come paesaggio, cioè quella parte più molto montagnosa, dura della Turchia, montagne, esatto, all'interno. Tutti questi monasteri arroccati sulle montagne. Sì, poi essendo piccolo più o meno il paesaggio è tutto uguale, non è che cambia, anche se ti sposti. Chiaro. E senti, che cosa ti ricordi di quei? In realtà io ho fatto una ricerca, più tardi qualcosa sui due calciatori la saprò dire io, però tu invece proprio non hai più saputo nulla di loro due. No, io ero rimasto che ci saremmo, io poi sono partito, ho fatto tutto il giro d'Armenia, poi tornavo nella capitale gli ultimi giorni. Mm-hmm. Eravamo rimasti d'accordo e ci siamo sentiti, però poi ho provato a chiamarli, ho scritto su Facebook, non ho più risposto, è finita lì. So che poi si sono spostati, sono andati a giocare forse uno in Bulgaria e uno in Romania. Ok, perché sì. Il livello del campionato armeno è abbastanza basso. Certo, è simile a quello italiano in quest'ultimo periodo più o meno. Sì, più o meno. Non così tanto, dai, però... Va bene, Alessandro, ti ringrazio molto per la storia, per la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. A presto, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. La crisi economica, un po' come ha contribuito a far cambiare il lavoro di Alessandro, ha cambiato decisamente le nostre abitudini. Le possibilità di realizzarsi si sono ridotte, spesso ai giovani non resta che andarsela a cercare da qualche altra parte. Ed è per questo che da qualche anno, oltre alla fuga dei cervelli, che ormai è straconosciuta, si sta assistendo anche a un'altra fuga, è la fuga dei piedi buoni. Anche gli esperti di calcio non sanno che ci sono un sacco di calciatori che magari non trovano spazio in Italia e che prima di perdersi nelle serie minori vanno all'estero a cercare fortuna. Sono diversi ovviamente dalle vecchie glorie che prima di appendere le scarpe al chiodo strappano contratti incredibili in posti esotici come Del Piero in India, Diamanti in Cina, Cannavaro negli Emirati Arabi e un sacco di altri. E sono diversi anche da Giuseppe Rossi, ad esempio, che ha sfondato prima all'estero e poi è tornato in Italia. E anche da quelli che non hanno ancora sfondato all'estero, ma che sembrano proprio che lo faranno presto o tardi. Non so se vi ricordate, gente come Federico Macheda, ad esempio, che adesso è in Inghilterra. Tanti calciatori emigrano perché la squadra dove sono cresciuti, ad esempio, è fallita, o perché hanno conosciuto un procuratore che li ha convinti che sarà la svolta della carriera, o semplicemente perché giocare nelle serie minori in Italia rende meno che all'estero. Quel che è certo è che sono tanti i calciatori italiani che decidono di trasferirsi non esattamente nella Premier League inglese. I due Alessandri della storia sono Alessandro Marchetti e Alessandro Venezia. Il primo ha vissuto la sua stagione migliore in Bulgaria, è stato alla stella del Bolev Vratsva, prima di approdare allo Yerevan, e adesso gioca nel Savona. Il secondo è passato dalla Romania all'Armenia, sperando di raggiungere il campionato russo, ma nessuno si è fatto avanti. Allora, dopo un anno in Egitto, adesso gioca nella Serie B australiana. Ma ce ne sono un sacco, ad esempio Max Ugge, che è passato dal Rio Torto Valmadrero alla Serie A lituana. Ci sono poi quelli che i procuratori propongono in tandem, come Jacopo Camilli o Luca Olivieri. Entrambi giocavano nel Civita Castellana e arrotondavano allenando le giovanili del Blera in provincia di Viterbo. Ora sono nella Serie B americana. Un'altra coppia originale è quella formata da Giovanni Chin e Carmine Giorgione, che si ispirano per modo di giocare e anche per stile un po' a Balotelli e del Sharawi. Stesse creste, stessi orecchini. Da due stagioni sono la coppia d'oro del Kissamikos Creta nella seconda divisione greca. Ma la vera stella di questo tipo di trasferimenti si chiama Michele Di Piedi. Dopo anni tra la seconda e la terza divisione inglese tenta il salto in Serie A in Norvegia. Dopo l'esperienza in Norvegia si trasferisce a Cipro e diventa il primo calciatore italiano del campionato cipriota. Torna in Italia e si fa Gela, Castrovillari, Nuorese, Lamezia, Mazzara, Milazzo e Nardò. Dopo una stagione nella Cireale risuonano le sirene dell'estero di nuovo. Va in Lituania, nel Taurus. Nel 2013, mentre gioca nel Rende, in Serie D, gli arriva la proposta più bizzarra della sua carriera. Lo vuole il Nai Pi Tau, in Myanmar. Michele Di Piedi fa le valigie e riparte un'altra volta. In Indonesia si sta trovando bene, ma ha già dichiarato che chiuderà la sua carriera al Miami United. Per molti, insomma, il calcio è una passione, per molti è un business, per tantissimi il calcio è soprattutto un mestiere. E alla fine, dalla storia di Alessandro, ho capito che, primo, il fotografo sportivo è un gran bel mestiere. Secondo, ci sono anche calciatori che lavorano per vivere. Terzo, è proprio vero che l'erba del vicino è sempre più verde. Quattro, mi piacerebbe provare per un periodo la vita dello sportivo professionista. E quinto, a cercar bene, c'è spazio per tutti. Se siete così eccitati dalla musica armena che oggi Tiziano Bonini ha scelto per voi, che per dirvi questo brano che stiamo ascoltando, me lo rialzi un attimo Gianmarco per piacere, si chiama Anoush My Rig e il primo invece si chiamava Hinkala, entrambi di un gruppo credo che si chiama Armenian Public Radio. Li trovate i titoli, se proprio non state più nella pelle, sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina Voi Siete Qui, esattamente di fianco al link per venire domani alla Pirelli alle 16. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, ringrazio Luciana che ha scritto a proposito di luoghi assurdi dove ha fatto delle foto a 5 passi dalla vetta del Monte Grona in provincia di Como, scrive su Facebook. Ero senza fiato, stavo per tornare indietro, guardo la cima e vedo una curiosa capretta bianca che mi osserva, alle sue spalle il sole a picco del mezzogiorno, sembrava una divinità e allora, fiduciosa, sono salita. Grazie a Gianmarco Ferronato che è stato di là sui tasti, grazie a Miriam Lucchetti, grazie a Mauro Pescio, grazie soprattutto ad Alessandro, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Massimo, vivo a Torino, la storia di domani è la mia e parla della prima volta che ho portato l'Annalisa a fare l'enduro. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.